3, 4, 5, 6. Ora, ora, ora. Allo, allo, allo, allo, allo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Sogno. Riccardo, com'è? Buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Si tira avanti, dai. Non ci possiamo lamentare. Perché c'è questa modulazione strana? In che senso sta? Ah, perché c'ho la pentola dietro. Se no muoio di caldo, cazzo, qua dentro. Minchia, che casino, E quanto c'era nel terrazzino di casa alla 1:30 oggi? 43 gradi. Minchia, ragazzi. Oggi c'era oggi. C'è da morire questi giorni. Da morire? Cazzo. Lasciate un collasso c'era, non so l'altro. Sono andato a farmi appena appena di spesa e sono salito tutto bagnato in testa. In testa, il coso, come ho bevuto. Mi sono fermato lì da Carrefour dove c'è la piazzetta insieme a un paio di amici. Ho bevuto un bicchiere di birra e come se mi avessi lavato come si chiama la testa con l'acqua. Che sugar. E allora, adesso, come si beve un bicchiere di birra? È già smaltito. Infatti sì. E va fuori, come si dice, no? Diceva quello. Infatti, mi sto bevendo lì. C'è la birra in offerta, la Moretti, a 1 euro. Da Carrefour me l'ha preso 3 bottiglie e me la sto bevendo bella fredda da frigo. Perché se no ho creti, la verità. La lanciata è il peggio, la verità. Perché è dolce, c'è zucchero e peggio. È vero, attore, è così. Più roba zuccherata bevi è peggio, mi sa. L'unica è l'acqua. E l'acqua, cazzo, un casino da tanto di quello. Devo stare sempre togliendo l'acqua dal dentro al frigo, togliere il frigo. Poi il frigo si apri, chiudi, comincia a scongelarsi il frigo, capito? Si sbaglia tutto in terra. Ah, fanculo, Chiara, chiara, è così. Tempo suo e alla fine, mi attore. Speriamo che alletti un po', se è vero, questo fine settimana, detto che allettava, va? Vediamo. Speriamo. A me mi si è ballato il telefono, lo sai, per 2 giorni. È andato in tilt il telefono e l'ho messo a caricare. Era al 30-40, mi sembra 50%, adesso non mi ricordo quant'era. Io la mattina mi alzo alle 10 del mattino perché non ho dormito un tubo la notte. Mi alzo, cazzo, di scatto, cazzo, devo finire con quello che Giova ha detto a chiamarmi, cazzo. Ah, controllo il cellulare, non controlla più. Nulla, non c'era verso di farlo accendere, niente. Cambiato le cose, i caricatori, cambiato i cavetti, di tutto ho fatto, cazzo. Tanto che oggi stranamente si è riacceso, la verità. Gli ho messo un cavetto bianco, gli ho messo con un caricatore e evidentemente è uscito dagli impulso, cosa cazzo non so, si è stato una pigliata e si è riacceso. Solo dovevo comprarmelo nuovo. Mi dovrebbe veramente le balle andare, cioè al Conrad e comprarmi un telefonino nuovo, perché i caricatori adesso diventano bolletti, hai capito? E allora? Era un casino poi, con questo caldo qua, noioia, tutto si cucina al rosso, ragazzi. E va bene, e per il resto Antonio lo stai combinando? Nulla sto combinando, io sono andato dalla relazione sociale, in pratica gli propri fogli delle varietà eccetera eccetera, mi ha detto che in pratica io non devo lavorare per niente da fine luglio in poi, quindi adesso vediamo cosa succederà, se mi rinnova la cartina, se mi danno 500, se mi danno 300, non so niente la verità, mi chiameranno penso. Penso di sì, Antone. Qualche, almeno che non mandano solamente i fulli, manderanno già tutti i fulli, se no neanche ti cercheranno, capito? Adesso vediamo dove c'è il fuori da questa banana cinese che hanno inventato. È inventato un troiaio questa cosa, io lo so. Quella lì che ha fatto un casino, ha fatto. Ma meno male già ci sono le amiche sue che assumono le persone e non pagano nessuno, come ha fatto la Santa Che, capito? L'hanno tappato in culo, l'hanno tappato strano, hai visto? Gli imprenditori sono cazzo, sono quelli cazzo non pagano neanche un cazzo, loro vanno a lavorare sempre che cosa? Per 3-4 euro a ora, non hai capito? Hanno fatto di tutto per prenderci per il culo Salvini e anche quell'altra stronza. E intanto l'abbiamo votato noi per mettercelo lì e continuiamo a votarlo, hai capito? Il discorso è quello. La colpa è la nostra. Cava, cava. Ma non è che scadeva a luglio, così è. E poi parte il nuovo. E poi parte il nuovo, parte, esatto, fino a dicembre. Cava, cava. E questo che mi sta ammazzando? La pagazione, quell'altro. Chiaro. Ma è in FM o in AM? Non lo capisco. In FM. La settimana scorsa mi sono fatto fino alle 11:30 di ex. Tutta la sera parlando fuori con cazzo, mi sono messo a ridere, mi sono messo a dire, mi sono fatto registrazione tutto il giorno di ex con questo apparecchio qua, con 140. Bene veda. Mi adesso l'ho portato acceso questo, il K, e Ciccia, a 45 stasera non c'era nessuno, non si vede nessuno. In 45 ci sto mai andando, la verità, io se vado in 27 e basta, poi in 45, cioè TMR uso me più che altro, c'è Pietro che parla insieme a me e poi vabbè mi metto ad ascoltare sul canale 8 in TMR che c'è di saggezza, c'è, capito? Lì è Pendanna e parlano gli infermieri che sono di lì, cioè gli ospiti più che altro, non gli infermieri, cioè l'importante è che li senti parlare, la verità, e mi fanno ridere, intanto entro, li saluto e mi diverto, capito? E ti fai due chiacchiere con loro. Sì, davvero, mi faccio due chiacchiere con loro, non si lamentano, la verità non si è mai lamentato nessuno, le maschi, le donne, mi salutano, ciao Antonè, cosa stai facendo? Come se tu sei di casa, quando mi hanno detto loro, dice, io sono la buona saggezza, sono un rosso, mi ha detto. E ascolta, sono stato 5 anni a saggezza, gli ho detto lì come fratello, penso di conoscervi tutti, gli ho detto, piano per piano, quindi a un certo punto, dopo che, adesso ho capito, mi ha detto chi sei, già mi ricordo di te, mi ha detto, e il Giampiero. Va bene, grazie, qua c'è un... una sauna sto facendo io qua su. Se guarda, se un Facebook è pieno di condizionatori, compatene uno, 59 euro me l'ho dirato uno, 59 poco fa, di quelli ci metti l'acqua ghiacciata e come si chiamano quegli affari che si usano per mettere il ghiaccio, cioè la roba fresca, una specie di ghiaccioli, quindi ci vogliono quelli lì insieme all'acqua e c'è l'acqua, cioè c'è l'aria fredda e consuma una cazzata di corrente, meglio del condizionatore dell'aria, la verità. Quei frizzini, quelle siberini si chiamano. Siberini, ora lo chiamano. Me ne ho ordinato un altro stasera. Ho detto sì, ma lui deve stare così, io ho detto, ce la faccio, ho detto 48 gradi, ho detto a morire, io ho detto dalla, in camera mia di notte, gli ho detto. Se la prende in culo, se la prende. La rinfrescano al poi? Guarda, si rinfrescano quelli, sono dei, si chiamano rinfrescatori, si chiamano. Sono grandi, sono. Rinfrescano, devi metterci il ghiaccio dentro e l'acqua e basta, non ci devi mettere altro. Dopodiché aspetti 3-4 minuti, massimo 5, c'hai l'aria fredda, c'hai. Dopodiché una volta che vedi che l'acqua si abbassa, non fai altro che dal frigo, prendi le bottiglie, le svuoti dentro e c'è sempre l'aria fresca, capito? Così non usi, come si chiama, il condizionatore d'aria che ti ammazza, ma stai scherzando? Buona sapersi, perché so di gente che l'ha provato e dice che non funzionava, non doveva funzionare, poi non so cosa si credeva che fosse, perché quelli sono diversi sì dal condizionatore, quindi ti rinfrescano l'aria alla fine, dai, ti tolgono quelle... Quel cosice, quell'aria calda. Io l'ho comprato 99 euro, te lo sto dicendo. Cioè, me l'aveva pagato 50. Quello solo se va niente. Lo accendevi e come se non ti faceva nulla, quelli piccoli, ma questo è grande. Hai capito? 59 euro. L'ho visto stasera e l'ho ordinato. Adesso mi dovrebbero chiamare penso domani, consegna il 48 ore. Vediamo un pochettino chi vado mi telefona. E... No, per 59 euro la spesa non è morta, la verità. A me non funziona, è grande quanto quello che ho io. Bene, bene, gamba. Ascolto ancora, mi stanno chiamando, compu. D'accordo, io sono con l'ascolto. Sì, avanti, avanti. Avanti che vuole entrare. Dimmi tutto. Eccomi. Mi hai risolto, aspetta l'avvento, non si tirare dietro, sei senz'altro, aspetta, abbasso, metto il microfono normale, così almeno mi ascolti meglio, sul avvento, aspetta. Vaga, perché pure ha preso tutto, le voci del circondario. Adesso, va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E si conferma. Sono col microfono normale. Almeno respira un pochettino, cazzo, c'è un caldo, ragazzi. C'è la fronte congelata, sudata. Figurati, cazzo, un dato di re. Sto sudando come un asino, cazzo, qui. segnare che cazzo mi guarda, mi sa che gira e gira mi piace il, come si chiama, mi compro pannelli solari, mi compro da bricome, me li installo e dopodiché mi piglio il condizionatore solare e faccio il buco, installo quello, allora lo uso per l'inverno e per l'estate, solo per, con i pannelli solari lo uso e basta. Eccolo, adesso sarebbe un'ottima idea, sarebbe un'ottima idea. E quanti rubrizi mettere appena fare questa operazione? Non ho capito, quanto devo fare? Quanti ce ne vogliono? Due, uno? Ma non mi sa che ne bastano due, adesso non lo so. Devo controllare da Bicomen quanto consuma il condizionatore d'aria e quanta attenzione mi danno i pannelli, perché devo comprarmi anche le batterie, lo sai, no? Perché i pannelli funzionano così, ci vogliono portare le batterie. Quindi adesso vediamo un po'. Vi faccio fare un preventivo. Adesso colloco con la 104, ma mi faccio installare tutto. Così almeno sono tranquillo. Mi risparmio, non pago IVA, non pago un cazzo. Anche se mi hanno detto che i pannelli non li puoi piazzare perché il tetto è una parte comune del condominio, mi ha detto. Il capocondominio. Hai capito? Hai detto, vabbè, c'è ragione tu, gli ho detto. Comunque gli ho detto. Dove c'è la parte dove c'è l'antenna, quella è sul tetto, è mio, non lo fate comune, ma è tutto. Poi si vedrà, gli ho detto, a un certo punto. Questo è stato venuto fatto a sud, quindi non è che mi hanno fatto alla mantova, la mantova la prendo, la sposto e la metto qui giù. E prima ci metto i pannelli. Cavagava. Così, cavolo, risolviamo alcuni problemi, acqua. Già va bene. Fammi sapere quanto ti sparano lì il prezzo. Già mi informo adesso un pochettino. Quanto ci vuole per un kit completo? Pannelli solari, batterie, roba del genere. Se vediamo un po' da bricco, ma vi faccio un giro. Solo me lo dico da internet, non lo so, vediamo un pochettino. Cara gaba, va bene Pompù, adesso vado a buttare la mondezza, poi faccio la dolce qui a nanna, domani lo voglio a corsa. Sempre in cosa? Vuoi fare in ambulanza? No, sono dipendente adesso, Antonè. Ah, sei entrato fisso, era ora. E allora, a provare però. Cazzo a provare? E tu ogni giorno che fai 20 km, 20-30 km a casa, fino a arrivare a provare che fai i tutt'uni e poi andate a ritorno. 8 ore. E si conferma, 25 sono, 25 da casa. Cazzo, 25 km al giorno. Cazzo, di benzina sono 15 euro a reso, cazzo. Tocco? No, adesso c'ho, mi hanno regalato la panda, come tengo, se no 150 euro al mese. Sì, vabbè, sono 50 euro al mese. Togli quanto ti danno? 1.200? Non ci arrivo, ma quasi, no. E qui sono 900 euro al mese, so. E cosa vuoi fare? È meglio di un pugno a occhio, già è. Vabbè, quello sì. Meglio un pugno a occhio, già è. Però, se riesci... Tanto dovevo fare lo salario nuovo a Sassari, quindi a un certo punto serve personale. Quindi a un certo punto ti conviene fare la domanda in anticipo, almeno se sei a Sassari se la pigliare in culo. E no, Gattore! A Sassari devo costruire lo salario nuovo. ho fatto solo io, quindi servono ambulanze, servono cose per fare i trasporti, cos'è? Non ci hanno mai sentito di fare te, come si dice? L'ospedale Nuvi, Sassari, taglia del nuvolo, dove stanno? Quattro sono, quattro presi di Nuvi di ospedale, quindi a un certo punto siamo le ambulanze, non ci può portare i pazienti da una parte all'altra, a piedi no? Sono per il formo e c'è una notizia, me ne approfitto. Avevo messo informati, anche perché sono, ho visto che a sono, c'è poca gente, le ambulanze della Russia non sono più viste in giro, è la verità, evidentemente mi hanno messo a fare altre mansioni, quelle che ci sono i volontari, capito? Prima c'erano, io mi ricordo c'era l'ambulanza della SL, c'erano tre, c'era la Santissima Annunziata. Poi sono pariti la circolazione perché sono subentrati i cazzo di volontari, eccetera, eccetera, e poi 118, e fanno lavorare a loro, in pratica la SL fa solamente trasporti per così di medicinali e altre cose varie, capito? Ehi, non così mai ce l'hanno fatta fuori poi. Avevano chiuso, poi c'è molta gente anziana, stava in pensione, quindi fino alle trasmissioni, mezzi adattati, io ero un casino io. Ah, sono potuto arrivare a Borghini, a portare il cazzo di così. Stavo solo dall'altro, e la Borghini, a te l'immagine. Sai quanti spiriti ci sono, oh Giulia, per carità. Vabbè, Antonè, se sennò poi mi si fa ora e buonanotte. D'accordo, ok, dai, ci stiamo domani, arrivederci. Tanto già sarò in casa. Faccio il ricco, mezzo tappato, sono mezzo sotto, cazzo. Sono sulle palle, sto cazzo di cosa, guarda. Di tutto quello che è stato dentro, la cellulina, l'acqua tiepida, no? Sono riuscito a sbloccare un cazzo. Ehi, ma che va, tanto è, vai da dottorino, ti puoi fare l'impegnativa e trovo un sistema. E quello ho trovato il sistema, fino alla siringa, sa come aspira, di quelle siringhe grosse per cavalli. Ho visto quella che aveva usato il medico mio di base, la siringa quella con il vecchio, ce l'hai presente con quel manico tondo, cazzo. E gli ho detto, ma cos'è quella? La siringa per le tosse è questa, gli ho detto. L'importante è che funzioni i rimedi, poi. C'è il becco lungo, no, già lo sai, avendo il becco lungo lui pesca dall'interno, una volta che tu ci metti l'acqua dentro, nell'orecchio, la ammollisce, come si chiama, te la spira, invece così non riesce a tirare niente, capito, ti fa la solo l'orecchio e basta. Ciao, ragazzi. E va bene, poco, dai, se aspettiamo domani alle prossime se coincide, dai, buonanotte e buon proseguo di serata. Altrettanto buonanotte anche a te, ci siamo domani, no? Buon proseguo di serata pure a te. Ciao, Antonio. Ciao, alle prossime.